lo fanno per bontà, ma alla fine, cioè, alla fine, cioè, faciliti la persona che entra. E gli ammetti il rischio di morire. Ciao, buona serata. Cioè, mi dispiace, ma però io ti farei capire a tutti quelli qua della barca che rischiano veramente la vita. E per te cosa rappresenta questo paese? Quale? L'Italia. L'opportunità.